A tempo di sport di Giovanni Capuano. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure a tempo di sport trattino radio 24 su Facebook o su Twitter, @CapuanoJo. Saluto Marco Belinazzo, collega del Sole 24 Ore, che è qui con me e col quale parleremo un po' di tutto. Ciao Marco. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. E saluto anche Riccardo Bigon, direttore sportivo del Napoli, che è in collegamento. Buon pomeriggio Bigon. Buongiorno a voi. Buon pomeriggio Bigon, perché oggi è giornata di vigilia per il Napoli, sta parlando proprio in questi istanti Walter Mazzari, domani c'è Napoli-Bologna, è una doppia vigilia per il Napoli perché è anche l'antivigilia della sentenza della commissione disciplinare per quanto riguarda la vicenda Gianello. Ne parleremo ovviamente anche di campo, di che cosa è il bilancio di questa prima fase della stagione per il Napoli. È una giornata di vigilia per tante big, siamo nelle ore di vigilia di Lazio-Inter, che è il big match di questa 17ª giornata. Una giornata, Riccardo Bigon, che ho l'impressione sia cruciale per questa stagione, perché domani sera la Juventus potrebbe trovarsi per la prima volta davvero in questo campionato in fuga. Sulla carta sembra tutto scritto, partite facili per la Juventus, per il Milan, per il Napoli, Inter e Lazio che si toglieranno dei punti. A me sembra però che queste siano le giornate in realtà dove di solito succede qualcosa che poi dà il segno al resto della stagione. Bigon. Ma sì, ha detto sicuramente bene. Sono giornate dove si pensa che i risultati siano in qualche modo scontati, invece il nostro bellissimo sport ci ha sempre insegnato che spesso succede il contrario, quindi la difficoltà sta proprio nel mantenere la giusta concentrazione, affrontare le partite nel modo giusto, consapevoli che nel calcio italiano ogni avversario è pericoloso. Sì, immagino concentrazione difficile da mantenere soprattutto per il Napoli, con quello che incombe, lo abbiamo detto lunedì arriverà questa sentenza. Mazzarri proprio pochi istanti fa ha detto: considero la penalizzazione un'ingiustizia, Grava e Cannavaro sono estranei alla vicenda. Oggi sul Corriere dello Sport, che mi sembra fra tutti i quotidiani quello in questo momento più vicino a questa vicenda, si dà quasi la certezza della penalizzazione di 2 punti. Ho come l'impressione, però chiedo conferma, che almeno per quanto riguarda questo primo grado ci sia un po' di rassegnazione su un esito contrario a quelle che sono le vostre speranze. Ma sinceramente rassegnazione io non posso averla perché la sentenza deve ancora uscire. Ma in ogni caso sappiamo che esistono altri gradi di giudizio dove eventualmente ricorreremo, e quindi per quanto riguarda la penalizzazione o l'eventuale penalizzazione in classifica siamo tranquilli delle nostre ragioni, sapendo che la giustizia alla fine insomma farà il suo corso, e quindi abbiamo anche altri gradi di giudizio a cui ricorrere. Per quanto riguarda i calciatori, certo, se le squalifiche verranno combinate saranno immediatamente esecutive e quindi subiremo un danno notevole, soprattutto per quanto riguarda Cannavaro, che è il nostro capitano, e che ci tengo a sottolineare che si tratta di ragazzi che non sono coinvolti in alcun modo nella vicenda, perché la vicenda calcio scommesse è assolutamente estranea a quella che è un'attività di Gianluca Grava e di Paolo Cannavaro, che in questo momento sarebbero accusati semplicemente di aver sentito delle cose e non averle denunciate, ma non hanno mai partecipato e non hanno mai dato un assenso di nessun tipo a qualsiasi tipo di combin, né loro, tantomeno il Napoli, che in questo caso è assolutamente parte lesa. Sì, viene l'impressione, coinvolgo anche Marco Belinazzo, che proprio sulla vicenda del Napoli possa esserci un'accelerazione alla riforma, alla riscrittura di questo istituto della responsabilità oggettiva. Sottolineo che un paio di ore fa il procuratore federale Palazzi, intervenendo a un convegno a Palermo, ha però detto che la responsabilità oggettiva è presente all'interno anche dell'ordinamento statuale, è un caposaldo per le federazioni di tutto il mondo e sostanzialmente la difesa. È evidente però che la vicenda del Napoli, più ancora di altre che l'hanno preceduta nei mesi scorsi, Marco, in qualche modo probabilmente forzerà la riscrittura di questo istituto. Beh, evidente, perché ci sono alcune particolarità nella storia che sta coinvolgendo il Napoli. La prima riguarda proprio la conformazione dell'accusa. Io ho avuto modo di leggere, insomma, le carte anche della procura, dell'interrogatorio di Giannello. Effettivamente noi abbiamo qui un caso in cui un giocatore sostiene di aver detto delle cose, di aver fatto delle proposte ad altri giocatori. Questi giocatori non hanno nemmeno partecipato quindi a nessun tipo di disegno criminoso, quindi c'è la parola di un giocatore contro la parola di due altri giocatori, non ci sono altri elementi. Sì, anche se questo è uno schema che abbiamo già visto con Conte Carobbio, almeno in parte per quanto riguardava le combine di cui ci siamo occupati a lungo quest'estate. Il problema appunto è che sulla base di questo modello accusatorio si procede, diciamo, ad una penalizzazione di un club che evidentemente non avrebbe potuto fare nulla per impedire quell'evento, no? E questa la mancanza di logica della responsabilità oggettiva. Palazzi dice bene, è un caposaldo dell'ordinamento sportivo, non solo in Italia, però è evidente, in particolare nella vicenda del Napoli, che c'è una forzatura nell'applicazione di queste regole, no? Un'applicazione che determina un danno economico importante, e quindi una realtà matura come calcio italiano non può più permettersi di applicare senza attenuanti un principio così rigido. Ho l'impressione che dopo il 14 gennaio, giorno delle nuove elezioni in Federcalcio, Bigon, in qualche modo il tema diventerà di strettissima attualità. Questa è anche la vostra impressione, oltre che, questo lo sappiamo, l'auspicio del presidente De Laurentiis? Il tema è d'attualità già da un po', e comunque nessuno sostiene che la responsabilità oggettiva vada annullata o abolita, va semplicemente graduata a seconda dei casi specifici, e nel caso in cui il club sia in grado di porre in essere tutta una serie di attività che possano in qualche modo esimere la propria responsabilità, se no sinceramente in questo modo possono essere addirittura costruite qualsiasi tipo di supposizioni o attività, chiamiamole complottistiche, per far perdere punti a dei club, perché anche il caso specifico potrebbe essere stato tutto inventato per creare del documento al nostro club, cosa che per carità non posso sostenere perché non lo so, però l'istituto della responsabilità oggettiva in questo modo formulato è troppo debole e facilmente attaccabile, perché qui parliamo di club che hanno in gioco, per esempio nella qualificazione Champions, decine di milioni di euro, e questi decine di milioni di euro sono in mano a un organo giudicante che praticamente non ha mezzi per approfondire la questione, dato che basta la parola di uno qualsiasi o quasi, senza nessun altro riscontro di terzi o di altre forme per poter effettivamente provocare dei danni molto grossi. Bigon, noi ci fermiamo un minuto, ci sono le notizie sul traffico, poi andiamo avanti, partiamo da qui e poi cerchiamo anche di capire che cosa sarà invece del Napoli nelle prossime settimane. Traffico. A tempo di sport. Io ricordo i numeri 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, a tempo di sport trattino radio 24 su Facebook, @ Capuano Gio su Twitter. Sono con Marco Bellinazzo e Riccardo Bigon. Per chiudere l'argomento sulla possibile penalizzazione, diciamo quasi certa in primo grado, ma vedremo lunedì, bisogna oramai attendere soltanto un paio di giorni, volevo chiedere a Riccardo Bigon cosa cambia dal punto di vista degli orizzonti della stagione del Napoli, eventualmente trovarsi a almeno 7 punti dalla Juventus. Ma questo è relativo, noi intanto non abbiamo mai dichiarato di voler vincere lo scudetto, non è il nostro obiettivo principale, il nostro obiettivo è quello di restare in alto, e credo che abbiamo le forze e la volontà per poterlo fare. Poi in questo momento la Juventus ha sicuramente delle marce in più per mille motivi, per mille parametri che loro hanno e che sono distanti dai nostri, e quindi non c'è nessun problema da quel punto di vista. È ovvio che, insomma, come abbiamo detto prima, anche solo un punto nella nostra situazione di classifica può essere effettivamente determinante. Sì, sarebbe certamente un danno su un Napoli, coinvolgo anche Marco Bellinazzo che è un cuore partenopeo, che sta andando bene, bene, meglio rispetto all'anno scorso. Giustamente Mazzarri sottolineava settimana scorsa che il Napoli sta andando alla stessa velocità della Juventus di un anno fa e dunque è perfettamente in linea con l'ipotesi e il progetto di uno scudetto, anche se poi, e allargo la domanda, c'è questo problema quando si gioca con le grandi, cioè esattamente lo specchio contrario rispetto all'Inter. Il Napoli con le grandi, fra tutte le bighe, è stata forse la peggiore. C'è da capire se questo è un campanello d'allarme. Marco e poi Riccardo. Beh, c'è da dire che ha giocato a Torino e a Milano, è vero che ha giocato col Milan in casa, però insomma anche il calendario poi nel ritorno potrebbe essere favorevole. C'è un progetto di crescita anche dei giovani. Il Napoli è vero che ha cambiato poco come giocatori, ma ha cambiato molto nel peso specifico di certi giocatori. Il passaggio per dire da Lavezzi a Insigne è un passaggio che deve essere poi ben assorbito nell'equilibrio della squadra. Se alcuni tiri di Insigne anche a Milano fossero entrati, sono usciti di pochi centimetri, staremmo a parlare di altro. Insomma, io naturalmente da tifoso, e qui svesto la giacca da esperto, da giornalista certo. Parlo da tifoso, insomma, mi auguro che effettivamente poi questo processo di maturazione anche di alcuni giovani venga accelerato nelle prossime settimane, insomma tra qualche mese, magari in primavera, si possa parlare con orizzonti più concreti, ecco, perlomeno di una qualificazione Champions, che poi credo dal punto di vista degli equilibri poi del progetto Napoli sia fondamentale. E quello è l'obiettivo Bigon? C'è un campanello d'allarme in questo rendimento con le grandi? Beh, guardi, ha usato proprio la parola giusta, cioè rendimento. Io nel mio ruolo ho il dovere di vedere come la squadra ha reso in quelle partite. E le due partite che lei ha citato, a Torino con la Juve e soprattutto a Milano con l'Inter, mi danno l'esatto contrario responso, cioè che la consapevolezza di poter lottare per stare nei primi posti è ancora maggiore, perché noi non abbiamo perso e basta due partite, le abbiamo giocate molto bene, abbiamo avuto più del 60% del possesso palla, abbiamo avuto quasi il 70% di vantaggio territoriale nella partita. Sì, ho l'impressione che il presidente De Laurentiis però l'abbia pensata poi diversamente quando in settimana ha sottolineato che alla fine l'importante è più che giocare bene e fare i punti. Nessuno può sostenere di essere contenti di aver perso, però se due partite di questo tipo giocate negli stadi di queste due grandi squadre dovevano finire in questo modo, cioè con due sconfitte, il modo in cui sono arrivate mi fanno star molto sereno per il futuro. Avrei preferito, cioè sarebbe stato molto più preoccupante perdere perché gli altri erano nettamente più forti, perché non ti avevano lasciato giocare, non è riuscito a far nulla e quindi c'era poco da fare. Io credo che giocando come abbiamo giocato a Milano andremo avanti. Ne perderete poche, Marco. L'unico dubbio che mi è venuto guardando le due partite è che magari questo possesso palla, che non è poi nelle corde del Napoli, sia stato un po' concesso dalle altre due squadre, che hanno, come dire, tolto profondità e non permesso quelle ripartenze che sono l'arma vincente del Napoli, concesso invece il possesso palla, e poi abbiano colpito una difesa che in certe situazioni a me è ancora fragile. È l'unico dubbio da tifoso, ma mi auguro che Mazzarri, insomma, sappia trovare poi le contromisure nelle prossime partite con le big, anche perché quando il Napoli ha giocato con le big in campo europeo l'anno scorso, insomma, ha dimostrato in campo di saperci stare. Bigon. Sì, sì, per carità, è vero che abbiamo preso campo in quelle partite, abbiamo fatto molto gioco noi, ma non credo che l'Inter avesse l'intenzione di chiudersi nella propria area e fare di Handanovic forse il migliore in campo, quindi insomma una cosa è impostare una partita magari con un baricentro un po' più basso, una cosa è subire 15 tiri, però la partita è andata così, ha vinto l'Inter, merito a loro assolutamente, però il discorso che facevo io è che tante volte vanno valutate meglio le prestazioni piuttosto che i risultati, anche se capisco che ovviamente è difficile scindere le due cose. Alcune delle domande che ci stanno arrivando, 349-238-6666 per i messaggi SMS oppure @ Capuano Gio Twitter, la possibile squalifica di Cannavaro e Grava quanto incide sul mercato di gennaio, perché si fanno tanti nomi a partire da quello di Silvestre, si è parlato di Bocchetti, di Burdisso, ci sono poi probabilmente, e chiederemo conferma, anche alcuni giocatori in uscita nel reparto difensivo. Quanto incide l'eventuale squalifica? Ma probabile che un'operazione in difesa andrà fatta nel momento in cui arriveranno le squalifiche. Quindi, insomma, adesso attendiamo intanto la sentenza e poi, insomma, il reparto è comunque solido e completo, perché abbiamo Fernandez, abbiamo Udini, in questo momento c'è Aronica, abbiamo comunque tenuto, non sapendo, e anche questo sinceramente è una cosa piuttosto strana, che durante l'annata noi non sapevamo mai quando era questo processo, anche questo era un po' strano, perché nell'impostazione dell'annata, insomma, in sede di mercato abbiamo dovuto stare sempre un po' allerta, perché non sapevamo mai quando sarebbe arrivato questo processo. Adesso che ci siamo, abbiamo il mercato vicino e se servirà interverremo. Ma l'identikit è quello di un giocatore subito pronto che possa entrare nei tre titolari eventualmente? Mi viene in mente ad esempio uno come Silvestre, che all'Inter sta facendo male, però è certamente un giocatore che ha un valore. È sicuramente un giocatore che ha valore, ma se l'Inter l'ha appena comprato, penso che abbiano anche loro i loro progetti sui calciatori. Il mercato di gennaio non è che si va a prendere chi si vuole, si va a prendere chi è sul mercato, e a gennaio sono sul mercato non quelli che stanno facendo benissimo o quelli che sono appena stati acquistati, quelli sui quali c'è un progetto. Sì, sono operazioni difficili anche dal punto di vista dell'architettura finanziaria, soprattutto se qualcuno ha investito 10 milioni soltanto in estate su un giocatore, è difficile che possa pensare di perderlo e di fare una minusvalenza che ai giorni che stiamo vivendo dal punto di vista del mercato è una parolaccia per tutti, non solo per l'Inter o per il Napoli. Sì, per noi soprattutto, nel senso che siamo molto attenti al fair play finanziario e alla bilancia di sempre in pareggio, e quindi comunque è ovvio che oggi tutte le società vengono gestite come aziende e quindi fanno i conti anche con quello che è il valore del calciatore a bilancio. Ci chiedono se la prospettiva di fare una seconda parte della stagione da protagonisti anche in Europa vi spingerà a prendere certamente un vice Cavani. Il nome che fanno i tifosi che scrivono è Rolando Bianchi. Ma anche qui è relativo. Noi abbiamo 4 attaccanti e oggi trovare un attaccante più forte dei nostri 4 è sinceramente complicato. Vi assicuro che fare nomi è giusto, perché è anche bello in questo periodo in cui il mercato si avvicina ipotizzare soluzioni, ma bisogna poi verificare col campo che i nomi fatti siano meglio di quelli che abbiamo, e non è semplice. A proposito dei 4 attaccanti, io sono sempre stato un sostenitore di Edu Vargas, l'ho visto giocare nella Coppa Sudamericana e ho visto un giocatore importante che oggettivamente non ha reso ancora. Non ho ancora capito bene quali sono le intenzioni del Napoli, leggendo in giro, insomma, si dà per scontato che venga ceduto in prestito, però insomma volevo capire da Bigon se... Qualche segnale di risveglio l'ha dato in questo autunno, provate a valorizzarlo fuori o lo tenete? Guardate, Edu Vargas è al Napoli da gennaio scorso, da un anno, quindi è quasi un anno. Ha giocato, se voi sapete, 6 partite da titolare, le 6 partite di Europa League di quest'anno, nelle quali ha fatto 3 gol, ma comunque vabbè, questo è relativo. Parliamo di un calciatore che, entrato in una squadra di altissimo livello, ha avuto poco spazio, ma non perché non glielo serve per la concorrenza, dare, ma perché al Napoli, siccome ogni partita va giocata per vincere, perché un pareggio è quasi una tragedia, non è facile anche sviluppare il materiale tecnico che hai per quei calciatori che oggi non sono ancora pronti al 100%. È un discorso che va fatto, ma vale per tutti, perché Hamsik e Lavezzi sono venuti nel Napoli neopromosso in Serie A, hanno fatto un campionato da titolare nel Napoli arrivando ottavi, un altro campionato in Serie A da titolare arrivando tredicesimi, e poi sono diventati Lavezzi e Hamsik, perché hanno... Edu Vargas avrebbe bisogno di tempo, cosa che purtroppo in Italia, soprattutto per i giovani, sembra una cosa piuttosto complicata da avere. Quindi posso tradurre che l'ipotesi del prestito non significherebbe una bocciatura, è un'ipotesi che eventualmente servirebbe per concedergli il tempo che a Napoli è difficile avere. Sì, eventualmente sarebbe quello, però ripeto quello che ho detto prima. Per poter mandare Vargas a maturare in un altro club, dobbiamo trovare uno migliore di Vargas da portare, perché sennò tanto vale tenersi quello che abbiamo, visto che comunque è un gran calciatore giovane che deve crescere. Perciò non è semplice oggi sul mercato di gennaio trovare un calciatore migliore di Vargas, per fare un esempio, da poter mettere nel nostro organico. E comunque manca ancora qualche settimana. Grazie a Riccardo Bigon. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Riccardo Bigon, domani ricordiamo Napoli-Bologna, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, ci fermiamo, pubblicità, meteo, poi torniamo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per telefonarci in diretta a dire che cosa ne pensate anche del processo sportivo sul Napoli. In tanti ci state scrivendo al 349 238 6666. Ci scrivete anche siete ridicoli quando la squalifica colpiva un piccolo come Pesoli, della questione non interessava nessuno, vi muovete soltanto per Conte e per il Napoli. Non è vero, noi parliamo, abbiamo parlato anche di Pesoli, parleremo anche di Mavillo Geller ad esempio e ve lo racconteremo nella settimana di Natale, e soprattutto diciamo che è vero che la giustizia sportiva, Marco, in qualche modo va riformata, che non significa cancellare del tutto la responsabilità oggettiva o dare una sorta di lascia passare ai club o a chi vuole comportarsi male, perché comunque il controllo deve restare in capo alle società, però è evidente che il mondo dello sport e soprattutto il mondo del calcio stanno cambiando ed è impossibile applicare gli istituti esattamente in fotocopia come sono stati negli ultimi 30 anni. Non possono essere le società ostaggio di un istituto giuridico, come non possono essere ostaggio di alcune frange estreme della tifoseria che, sfruttando proprio la responsabilità oggettiva, hanno tenuto in scacco i club, appunto perché qualsiasi tipo di manifestazione violenta sapevano avrebbe procurato una sanzione pecuniaria alle società. Qualche modifica è stata fatta all'istituto in generale. Ed è il motivo, ad esempio, per cui gli striscioni costano una mancetta, poche migliaia di euro di multa, perché si cerca di evitare proprio l'effetto estorsione. E si cerca anche di mettere le società nella condizione di poter fare qualcosa per attenuare la propria responsabilità. Chi va allo stadio sa che vengono ripetuti, per esempio, gli appelli ad evitare, per evitare i cori razzisti o manifestazioni violente. Quello è un modo per la società per tutelarsi. Tutto questo, diciamo, dovrebbe essere in qualche modo applicato anche all'istituto della responsabilità oggettiva quando ci sono casi di calcio scommesse o di scommesse illegali. Vedremo cosa farà la federazione. Intanto io saluto mesi. Sandro Piccinini, collega di Mediaset, che è in partenza per lo Stadio Olimpico. Buon pomeriggio, Sandro. Eccomi, ciao a tutti. Perché intanto questo Lazio-Inter questa sera vuol dire non poco, io credo, sulle valutazioni che si faranno e si fanno già delle possibilità dell'Inter di fare corsa a scudetto fino alla fine della stagione. Credo sia un esame soprattutto per Stramaccioni più che per la Lazio di Petkovic. Sì, direi di sì, non fosse altro che perché l'Inter comunque ha 4 punti più in classifica, ha superato l'ostacolo della Juventus a Torino, quindi facendo intravedere anche delle potenzialità superiori, no, rispetto alla propria classifica. Però se dovesse vincere la Lazio il discorso potrebbe ribaltarsi fra una settimana, quindi è una partita molto importante per tutti. È anche vero che in questo campionato mi pare che una settimana sì, una no, si vada alla ricerca dell'anti-Juve. Sì, porta male. Adesso no, il turno dell'Inter, realtà, dopo la Roma, ecco, dopo il Napoli, chissà se Stramaccioni saprà reggere a questa pressione. In realtà ce ne sono diverse di anti-Juve, però a debita distanza, cioè nel senso che la Juve sembra avere qualcosa di più, quindi forse dipenderà più dalla Juve che dalle altre, perché dipenderà soprattutto dall'impatto che avrà la Juve in Champions a febbraio. Sì, e anche dal mercato, perché se è vero che a Torino a gennaio, complice l'infortunio di Bentner, davvero si sono convinti di portare un top player, magari Drogba, io credo che a gennaio semplicemente si gioca per il secondo posto, ancor più di quanto può accadere in previsione oggi. Però voi sapete meglio di me che a gennaio il top player è dura, è difficile. Tanto. E arrivano a cifre fuori mercato sproporzionate. Una società come la Juve non mi pare che abbia dato questi segnali a livello proprio gestionale, no? Mi sembra che sia una società molto quadrata, molto attenta, Quindi, non so, la vedo dura per nomi di quel tipo. Ne parlavamo prima anche con Riccardo Bigon. Mi sembra invece che Stramaccioni cambi nuovamente pelle alla sua Inter. Da questo punto di vista il coraggio non gli manca. Mancano le conferme, ma potrebbe esserci la difesa a 4. Sicuramente non ci sarà, sicuramente, insomma, per quanto possiamo dire a 3 ore dall'inizio della partita, non ci sarà il tridente pesante. Potrebbe esserci Guarina ancora trequartista. Da questo punto di vista Stramaccioni certamente non ci sta facendo annoiare. Guarda, ho sentito i nostri inviati poco fa e tutti non hanno certezze, perché Stramaccioni, come sapete, dà la formazione ai giocatori proprio nell'imminenza dell'arrivo allo stadio, quindi sono tutte ipotesi possibili. Quel che è certo è che Stramaccioni ha dimostrato di saper confezionare un tipo di squadra a seconda dell'avversario, quindi ogni volta, diciamo così, cerca di adattare i propri uomini, visto che ne ha tanti e di caratteristiche abbastanza diverse, a seconda di quelle che sono le caratteristiche dell'avversario. In questo caso lui teme molto le fasce della Lazio, cioè gli uomini d'attacco sulle fasce, quindi Candreva, Mauri, vedremo forse Lulice questa sera, e quindi penso che probabilmente sì, in questi casi la difesa a 4 è quella migliore, perché propone una copertura del campo più ampia, quindi in teoria potrebbe piazzare questi 4 difensori e mantenere, secondo me, Guarin in quella posizione che è un po' da trequartista, un po' nozzo, perché lui è un po' un anarchico, però ecco, ha dimostrato in quella posizione di poter far molto male, perché è un giocatore di grande qualità sia tecnica che fisica, e godendo di una certa libertà può essere un'arma in più. Sì, oggi tanti scrivono che la sfida soprattutto fra Close e Milito è lì che si decide questa partita. Certo. Io, se potessi arretrare di qualche metro, dico che invece è la sfida fra Hernanes e Guarin, sarà probabilmente nella differenza tra questi due giocatori che si potrà scavare una differenza tra Inter e Lazio. Sì, guarda, di qualità in campo ce n'è tanta questa sera. Qualcuno dice che addirittura potrebbe rimanere fuori Cassano, io sarei molto sorpreso, anche se è vero che Cassano in genere è più devastante in casa che fuori, però ecco, se arriva addirittura a avere l'imbarazzo della scelta di tenere fuori uno come Cassano, che in questi mesi ha fatto benissimo, vuol dire che sono due squadre di grande qualità, ecco, che se trovassero anche quella continuità che ha la Juve, che quella solidità soprattutto, perché sono due squadre che magari in qualche occasione si sbilanciano un po' troppo, potrebbero veramente insomma arrivare fino in fondo. Sì, non c'è dubbio. Grazie Sandro Piccinini. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie ciao. Sandro Piccinini, in partenza per l'Olimpico, dove questa sera per Mediaset Premium racconterà Lazio-Inter. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Osvaldo dalla provincia di Arezzo, buonasera. Sì. Buonasera. Prego. Buonasera a tutti. Io sono un tifoso del Napoli, sì che parlerò un attimino una domanda del Napoli. E volevo sapere un attimino se siete d'accordo con me che dopo la partita della contro la Juventus persa a Torino e quella dell'Inter persa a Milano, il Napoli un attimino mi sembra che sia mancato un attimino di concretezza, di personalità. Sì, il Napoli ha avuto certamente per qualche settimana ha risentito di quella sconfitta, credo abbia fatto 4 punti nelle 3 partite successive, non ho sotto mano, però è evidente che c'è stato un problema, perché quella sconfitta sembrava aver cambiato, Marco, in qualche modo gli orizzonti del Napoli. Sì, soprattutto per come è maturata. A un certo punto di Juve-Napoli sembrava che il Napoli avesse preso campo e poi invece la Juve ha punito le solite disattenzioni, ma io credo che ci sia stato davvero un grande problema non tanto nella difesa del Napoli nelle ultime partite quanto nell'attacco. Ha sprecato una enormità di palle gol, è mancato quel cinismo evocato spesso da Mazzarri, quel cinismo che deve essere di una grande squadra. Ecco, quando il Napoli riuscirà a concretizzare davvero tutte le occasioni, quando magari Cavani rinuncerà a qualche galoppata all'indietro per chiudere gli spazi e sarà più lucido sotto porta, ma anche gli altri compagni contribuiranno a realizzare segnature. Sì, sarà perfetto Cavani a quel punto, però io temo probabilmente sarà anche lontano da Napoli, perché questo è uno dei grandi temi dei prossimi mesi. Beh, sarà il tema della prossima estate, credo. Certamente. A proposito di squadre che crescono, vogliono crescere, c'è la Roma che viene da un filotto importante dopo la sconfitta nel derby. Sentite Zeman oggi, il futuro è adesso. Eric per me sta bene oggi, magari perché non gioca da tempo, però sta bene fisicamente, sta bene anche di testa, quindi per me non ci sono problemi. È il discorso del futuro che per me è presente. Noi abbiamo tanti giovani che si stanno mettendo in mostra, ultimo Romagnoli, e spero che questi ragazzi faranno futuro della Roma, ma io vorrei che fanno anche presente, e fino a questo momento penso che si sono comportati molto bene. Questo era Zeman sui giovani della Roma, oggi sulla Gazzetta dello Sport, un'interessante indagine sull'età media che si è abbassata nel nostro campionato, e la Roma è una delle squadre con l'età media più bassa insieme all'Inter, e io credo non sia un caso, perché Inter e Roma sono due progetti che sono partiti in questa stagione. Non è un caso ad esempio che Napoli e Juventus si avvicinino o superino i 28 anni di età media. Napoli e Juventus già da questa stagione hanno il progetto di raccogliere qualcosa. Francesco da Verona ha chiamato all'800 24 00 24. Francesco, buonasera. Buonasera. Prego. Io ho sentito prima che parlavate dello striscione della Juve e gli hanno dato un'ammenda di 10.000 euro. Certo. Io volevo parlare, essendo da Verona, con l'Hellas, ogni volta che succede qualcosa del Verona gli vanno giù con una scure pazzesca. Non mi dica che c'è un complotto contro il Verona. No, Francesco, assolutamente, assolutamente. Io sto dicendo che forse a volte, quando mettono una lettera di ingrandimento su una tifoseria, ogni piccolo particolare lo fanno portare una cosa esagerata. Sì, mi perdoni, però Francesco, sei piccolo. No, ma poi la lascio concludere, si figuri. Però se qualche piccolo particolare, lo spettacolo indecoroso dato da qualche tifoso dell'Hellas, ad esempio a Livorno con i cori su Morosini, se mi consente, secondo me i 50.000 euro sono anche stati troppo pochi, ma non lo dico io, lo ha detto il giudice sportivo, che ha semplicemente scritto nel suo dispositivo che la sanzione corretta, che sarebbe stata, credo, la squalifica del campo per il Verona, almeno per una giornata, avrebbe penalizzato eccessivamente la società. Prego, Francesco. No, ma questo ha ragione, e la città ha preso una, come si dice, come si è visto, una distinzione, anzi sono stati presi per fortuna questi personaggi, non tifosi. Però ricordiamo che il Verona ha preso una multa perché ha protestato contro il suo allenatore Remondina quando era in Serie C. È stata l'unica squadra che ha preso un'ammenda perché ha contestato il suo allenatore. Cioè, è quasi un paradosso, vero? Va è bene. Mai successo da nessuna parte. E ogni volta che succede qualcosa sembra che sia il fine del mondo, anche se ci sono ancora una piccola frangia di tifosi che a volte non sono tifosi, sono animali, vero? Sì, ma quelli ci sono ovunque. Diciamo che purtroppo da Verona ci siamo abituati spesso a ricevere da questo punto di vista cattive notizie. Grazie comunque, Francesco. Noi ovviamente non ce l'abbiamo né con la tifoseria dell'Hellas né con la tifoseria della Juventus. Prima stavamo semplicemente spiegando con Marco Bellinazzo perché ad esempio le multe per questi striscioni sembrano irrisorie: 4, 5, 6, 7, 10 mila euro, che ovviamente su incassi milionari sono poco più di una mancia. In realtà, ma lo abbiamo spiegato anche un paio di settimane fa con il responsabile del Viminale Massucci, si tratta di un accordo trovato proprio per evitare l'effetto ricattatorio, perché purtroppo alcune inchieste recentemente avevano dimostrato che esiste anche questo nel mondo del calcio, nel rapporto fra società e tifosi. Ci fermiamo, informazioni sul traffico, poi torniamo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Sentiamo la voce di Montella, è la vigilia del derby tra Fiorentina e Siena. Montella. Rispetto al nostro percorso, la sconfitta di sabato scorso non cambia nulla, anche perché credo che la squadra abbia dimostrato di avere convinzione, non credo che le voglia perdere dopo una sconfitta, quando siamo la squadra che dopo la Juve ha perso meno, credo insieme a Napoli, quindi voglio dire, ha pagato questa mentalità e dovremmo avere la forza di portarla ancora avanti. Fiorentina che è leggermente in flessione, però sta per rientrare Jovetic, che è a disposizione, anche se ha detto Montella non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi bisogna vedere come impiegarlo domani contro il Siena. Oggi non si è presentato Berlusconi a Milanello, colpa della neve, ha però parlato ieri sera alla festa di Natale, la tradizionale festa di Natale rossonera, e ha parlato di mercato, sentiamolo. È venuto fuori il sogno Balotelli, non è vero, non l'ho mai sognato e non mi sembra rientri nei programmi del Milan. Ma in centrocampo siamo bene attrezzati, c'è stato questo infortunio, ma adesso arriva il nostro campione, quello che abbiamo preso dall'Inter, e quindi credo che il centrocampo sia forte. Stiamo considerando 3 o 4 giocatori che non posso nominare perché altrimenti salterebbero i prezzi in su, ma abbiamo intenzione di rafforzarci, però con, diciamo, coniudicio, nel senso che questa squadra, voi avete visto che adesso nelle ultime 4 partite si è comportata molto bene, ho fiducia che possa salire via via gli scalini della classifica. E la fortuna dei tifosi del Milan, caro Marco Belinazzo, è che le elezioni arrivano dopo il 30 gennaio, dopo il 31 gennaio alle ore 19, quando chiude il mercato invernale. Quindi magari questi 3-4 rinforzi passano dalla materia dei sogni alla realtà concreta di qualche intervento. Beh, può darsi, ma insomma guardando i conti non credo che il Milan abbia la forza per intervenire sul mercato con 3-4 acquisti rilevanti, a meno che per esempio non parta Robinho, che mi pare abbia la saudade e quindi potrebbe tornare in Brasile, a quel punto ci sarebbero delle risorse. Galliani ha annunciato la volontà di arrivare al pareggio di bilancio e questo sarà raggiunto, questo obiettivo, appunto sfoltendo la rosa, abbassando gli ingaggi. La via intrapresa è quella giusta e sarebbe un peccato cambiare in corsa, a meno che ovviamente non si presentino delle occasioni sul mercato. Galliani è sempre stato bravo a cogliere e a fare affari con poche risorse. Vedremo se sarà il caso, insomma, questo. Sì, guardando soprattutto i conti di Mondadori e Mediaset, che hanno chiuso un 2012 drammatico, perché hanno chiuso con dei passivi importanti e soprattutto a cui non erano abituati. Giovanni da Milano ha chiamato l'800 24 00 24. Giovanni, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Senta, giusto l'ultimo argomento che stavate trattando poteva forse anche essere una questione di propaganda politica, magari può far prospettare al tifosi milanisti un acquisto di un top player, ma i conti, come diceva giustamente, sono abbastanza preoccupanti per quanto riguarda il gruppo Mediaset. Sì, ma lo spazio per farlo dal punto di vista ad esempio del fair play finanziario esiste, perché se esiste, il Milan, certo, si avvia a chiudere Marco Belinazzo in pareggio o comunque con un lievissimo rosso il prossimo bilancio, è evidente che un regalo Berlusconi potrebbe anche farlo, però poi c'è tutto il contesto intorno e c'è, esatto, una famiglia che lo ha dimostrato chiaramente negli ultimi anni, nelle ultime stagioni, considera da questo punto di vista il Milan un ramo secco. Marco? Beh, è un asset non più prioritario nell'ambito di quella che è la Galassia, cioè può diventarlo per un paio di mesi a livello di visibilità per Silvio Berlusconi, al di là che è un grande amore, ma questa non è una cattiveria. Io credo che nel calcio si investa anche per motivi di visibilità, per motivi commerciali, e ci sta anche che si possa investire per motivi di visibilità politica. Non è illegale, non c'è dubbio. Il problema vero, come dicevo poc'anzi, è che il Milan ha intrapreso una strada che non è stata intrapresa, come dire, semplicemente perché non c'erano più soldi. Questo sarebbe troppo semplice dirlo. È stata intrapresa anche perché il Milan, arrivando da passivi importanti negli anni scorsi, tenderà a dimostrare alla UEFA che è una società virtuosa, a differenza di altre, che quindi potrà stare nel club dei, diciamo, tra i club più importanti d'Europa anche dal punto di vista economico. A differenza ad esempio del Manchester City, che ha chiuso ieri con un rosso da spavento. 90 milioni di rosso, insomma. Di sterline. 90 milioni di euro, anzi quasi 120 milioni di euro e 97 milioni di sterline, me l'ero appuntato, che fanno il paio con 240 milioni di euro di rosso dell'anno precedente e che rendono chiaramente, con l'eliminazione in Champions ed anche con la mancata partecipazione alla Europa League, difficilissimo invertire la rotta. Vedremo come il City poi sarà trattato dalla UEFA. Attendiamo con impazienza notizie da Platini sul City, sul Paris Saint-Germain. Intanto noi come notizia vi diciamo che oggi il City ha vinto 3-1 fuori casa Newcastle e Balotelli è rimasto seduto in panchina, non ha giocato nemmeno un minuto, e il City ha assolutamente bisogno di liberarsi di un attaccante a gennaio, perché è fuori da tutte le competizioni europee, non ha possibilità di valorizzare e di impiegare i tanti campioni che ha davanti. Abbiamo ancora un minuto, Marco, anzi meno. È la settimana dell'elezione del presidente di Lega. Flash, Abodi, Beretta o nessuno e si va a gennaio? Beh, ho l'impressione che ci sia coagulando una certa maggioranza intorno ad Abodi, e comunque entro il 14 gennaio si deve eleggere questo presidente. Insomma. Il che significa che la Juventus sta tornando potente come è stata un tempo, senza nessuna malizia. Grazie a Marco Belinazzo. Grazie a voi, a presto. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Valeria Bernardi in regia. L'appuntamento con A Tempo di Sport è domani alle 16.30 per raccontarvi tutto il pomeriggio del calcio, e non solo, c'è la 17ª giornata che, lo ricordiamo, inizia tra poco meno di 5 minuti con Palermo Udinese e poi questa sera Lazio Inter. Un saluto anche da Giovanni Capuano.